Questi sono i roseri che vengono le rose. Come ti chiami? Ciro è un nome napoletano, insomma, ecco qua che è l'orto, se volevi venire a vedere. I suoi antenati sono napoletani. A quanti anni hai imparato a coltivare? Quando che ero piccolo come te, ho cominciato a seminare, dopo a zappare, a cavare l'erba, perché è sempre infestante di erba, vedi, qua ci sono gli spinaci, però dopo bisogna levare anche l'erba, perché sennò l'erba soffoca. Chi è che insegna a fare Chi è l'orto? che insegna a fare l'orto? Si impara piano piano. Quando che si sbaglia, un altro anno si recupera, si guarda di fare sempre meglio. Da quanto coltivi? Io, quando che ero grande come te, ho incominciato qua, che abitavo sempre qua. Abbiamo fatto l'orto qua, che è una piccola serra. Prego. Hai problemi con le piante che coltivi? Ma no, non ci sono tanti problemi perché qua è tutto biologico. L'unica cosa è l'insalata, specie nella serra, fanno dei pidocchi e allora bisogna stare attenti, non annaffiare la sera, annaffiare solo la mattina perché Perché fa più fresco? è fresco e si asciuga prima. Come mai, signor Perché Ciro, è come così avanti l'orto? mai? Come mai? Come ha Perché fatto? qua, vedi qua, non c'è niente qua. Allora qua c'erano dei piccoli teli, vedi che c'è una barra che va via, e c'erano dei teli grandi 2 metri e si poteva alzare e abbassare. Li ho levati l'altro giorno, che comincia a far caldo, e allora vedi che questi sono rapanelli. Fra un po' di giorni, vedi, rapanelli rossi. Fra un po' di giorni vengono così, fra 7 giorni sono grossi così. Sono buoni? Sì, sono buoni. No, Adesso non metti più nessun telo, cioè solo. basta, adesso. Posso assaggiare? Perché. È previsto un grado, domande tue. Vuoi assaggiarlo? Dammi una soffiata, mangialo. Voglio assaggiare anche questi, sono gli spinaci. Si può mangiare anche questi, eh? Vuoi provare? No? Perché vuole provare lo spinacio? Ti Un puoi appassionato di prendere un verdura? pochino. Questa semina l'ho fatta in febbraio, ai primi di febbraio, con la luna di febbraio, queste semine. Quelle lì ancora in settembre, ottobre le ho seminate Insalate? in salata. Ma dai. In settembre-ottobre. Prego. Ma quella là in fondo cos'è? È un'altra semina. Di cosa? Quale? Di cosa? Quelle piccoline Ne è posso tirar su basilico. uno di rapanello? Per fare il pesto, quelle là, quelle che Scusate. nasce adesso, quelle là, Sono spinaci che. questa è tutta Stai zitto. l'insalata. Questi sono rapanelli bianchi, questi spinaci, questo è basilico e qua il seminato è ancora insalata. Questo è il basilico che si fa il pesto genovese anche, no? Chi ti ha dato la passione dell'orto, Ciro? È venuta così. I tuoi genitori coltivavano l'orto? No, poco, perché non c'era l'abitudine allora, i miei genitori prima, solo un po' di pomodori e basta. Dopo l'orto, insalata, rapanelli, ho incominciato io a fare l'orto, insomma. Posso chiederti una domanda un po' anche particolare, se vuoi. Cosa vuol dire per te coltivare l'orto? Ma le hobby, un passatempo, perché ho sempre lavorato, prima lavoravo all'ospedale come infermiere, dopo sono andato in pensione e adesso lavoro la campagna un po', che avevo un po' di campagna, e la sera, quando che sono stanco, mi dedico all'orto Quindi per passare. l'orto non è una fatica. No, l'orto è un hobby, è un piacere, perché la soddisfazione di dire mangio la mia verdura, i miei rapanelli, i miei spinaci, e lo stesso ho le piantine dei pomodori là adesso nella cassettina. Ancora non pronti? No, adesso le metto nelle vaschette piccole e le metto in serra perché è ancora freddo, no? Il pomodoro è delicato. E dopo, verso la fine di aprile, si trapianta, perché se vuoi avere questo qua, bisogna programmare ancora il primo di febbraio la semina, le piantine, perché qua è tutto semina, no? Di febbraio, a parte queste, che erano in ottobre. L'importante è dopo usare concimi, non concimi sempre biologici. Adesso vi faccio vedere, se avete tempo là, c'è una buca. Usciamo ragazzi, usciamo. Che c'è... Adesso ne vediamo un'altra. Un'altra più grande? Un'altra più grande. In dialetto, sapete come si chiamava una volta? Cosa? La busa della grassa. La busa. Qua c'è le patate pronte per... dopo Pasqua si può seminare, vedi che incominciano già a germogliare, vedi? Le patate, queste sono patate da semina. Ah, ma poi le taglie, le metti a seccare e poi le piante? No, queste sono patate che ho comprate io anch'io, perché le meglio patate di montagna per seminare qua da noi, no? E allora le patate piccole di montagna, che dopo tu le fra a Pasqua, che c'è la luna nuova, si semina. E dopo si copre di terra e queste sono pronte. Ecco qua c'è la buca del compostaggio. E qua si fa tutti i residui dalle foglie, dall'erba che non si usa, le arance, vedi? Anche qualche piccolo tovagliolo di carta, basta che non sia di quelli più... Usa della grassa, ad esempio, una volta che mettevo la grassa, che tu praticamente butti la roba e dopo sotto si forma la terra. La roba, cos'è la roba? Tipo le piante secche. Sono cose che sono biodegradabili. Esatto. Cosa succede poi? Le butti lì dentro e dopo se scavi sotto si trova la terra. Sotto lì è tutto un ragnatelo di lombrichi grandi così, che mangiano tutti i residui e poi si forma questo terriccio che si chiama humus.